Io mi auguro che si siano risolte le questioni problematiche, mi auguro che questi approfondimenti possano essere utili a stabilire che il 18 maggio possano riprendere gli allenamenti non solo di squadra del calcio, ma chiaramente tutte le altre discipline sportive. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Anche la Lazio è ripartita 60 giorni dopo dall'ultimo allenamento e 67 da quell'ormai lontano Lazio-Bologna di fine febbraio. Mascherine e timidi sorrisi si intravedono attraverso i finestrini. La Roma è ripartita con una mattinata di lavoro iniziata col turno delle 9.30. I tesserati passano per il gazebo a misurare la temperatura. Chi ha più di 37,5 torna a casa, gli altri tutti in campo. Vedere i giocatori poter varcare nuovamente il cancello di Milanello, totalmente sanificato per l'occasione, fa un bell'effetto. Gli allenamenti finalmente sono ripresi, misurazione della temperatura col termoscanner all'ingresso e stanze singole per cambiarsi e farsi la doccia al posto del classico spogliatoio tutti insieme. Norme rigidissime come da protocollo e ampio distanziamento durante gli allenamenti individuali. Lavoro diviso a gruppi di 3, 4, 5 giocatori sui quattro campi a disposizione del club da Piano Gentile. Le sedute saranno facoltative e saranno presenti un medico ed un preparatore atletico, difficilmente Antonio Conte, almeno nei primi giorni, che serviranno solo a rimettere in moto una macchina che ha viaggiato a giri ridotti in questi mesi, nonostante i lavori e le tabelle personalizzate che ogni giocatore ha seguito nelle proprie abitazioni o a volte nei garage condominiali. Eccoci qui, siamo al bollettino quotidiano dal fronte della ripresa, bollettino cui si è aggiunta in questa mattinata la notizia della negatività di tutti i test medici cui sono stati sottoposti i calciatori dell'Inter, che dunque tra poco meno di un'oretta cominceranno da Piano Gentile gli allenamenti individuali. Filadelfia, che invece ha riaperto questa mattina i cancelli per accogliere i giocatori del Torino. Ieri è successo al Milan, alla Roma, alla Lazio, i blocchi di partenza, c'è anche il Napoli di Gattuso. E poi c'è anche il resto dello sport che sta tentando una faticosa ripartenza. Questa mattina, ad esempio, Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia-Romagna, ha detto: stiamo lavorando per il MotoGP di Misano, che è previsto in questo momento a metà settembre, per poterlo fare a porte chiuse all'interno di un circuito mondiale che preveda meno tappe di prima. Ieri abbiamo scoperto che, ad esempio, la prima potrebbe essere Jerez de la Frontera a luglio, con due gran premi consecutivi. Il tutto mentre il calcio italiano non solo è appeso alla relazione in mano al ministro della Salute Speranza, che deve promuovere o bocciare lo sforzo fatto per scrivere il protocollo di regole, far ripartire il campionato e mettere fine anche al dibattito di queste settimane. 800 24 00 24, numero verde per intervenire, vi aspetto fino alle 15, cominciate a prenotarvi. Dopo le 14.30 spazio alle vostre chiamate. 349 238 6666 sms e whatsapp. Vi dico che parleremo anche di pallacanestro con il presidente della FIP ed ex presidente del CONI Petrucci, e poi parleremo anche di sport sul ghiaccio in questo nostro viaggio nello sport che cerca di uscire dall'emergenza. Intanto saluto Massimo Caputi, ciao Massimo. Ciao, buon pomeriggio. Allora, intanto io oggi ho trovato molto significative le prime pagine della Gazzetta e del Corriere dello Sport. Da una parte Milano che ci prova, dall'altro il risveglio della capitale. Insomma, Milano e Roma unite da un filo sottile, almeno nel calcio, per cercare un piccolo ritorno alla normalità. Sì, due simboli, diciamo, di una ripartenza, due grandi città, due metropoli con situazioni diverse, ma indubbiamente con la stessa voglia, io credo. Ma a Roma, la Lazio da sempre, la Roma poi comunque si sono schierate abbastanza evidentemente sulla voglia di riprendere gli allenamenti, quantomeno, e credo che anche con l'atteggiamento e con l'inizio ieri del Milan e oggi dell'Inter sia la stessa cosa accada a Milano. È un bel segnale, credo che sia anche normale e doveroso da parte del calcio, delle squadre e dei calciatori quantomeno riprendere gli allenamenti. Poi per il campionato questa è un'altra storia, appunto tu parlavi giustamente del protocollo. Questa attesa. Sì, questa attesa, ma io credo che si debba necessariamente trovare delle formule per poter riprendere non si tratta del calcio come un qualcosa di astratto e fuori dalla normalità. Il calcio fa parte della nostra normalità, e quindi come riaprono le aziende, come le aziende si devono attrezzare per poter riprendere la loro attività, io credo che altrettanto debba fare il calcio. Sì, non vale a tutto, non vale tutto, scrive un amico, 349-238-6666, invece delle 5 sostituzioni potrebbero finire il campionato con partite di calcio a 5, così non ci sarebbe il problema di possibili contagi, o sarebbe limitato adesso. Mettiamo dei paletti, c'è qualcosa che andrà mantenuto del vecchio calcio. Ma, guarda, ne abbiamo sentite talmente tante in questo periodo che una più, una meno. È ovvio, io credo che un concetto debba essere fondamentale, e cioè che questa ripresa, questa voglia di tornare alla normalità è una voglia legittima che va alimentata, perché con questo virus noi dobbiamo convivere. È chiaro però che non possiamo pensare che tutto proceda o tutto riprenda così come lo avevamo lasciato o come ce lo siamo messo alle spalle, perché è evidente che non tutto e non tutti noi possiamo fare da subito le stesse cose come prima, e quindi anche il calcio, per rispondere alla domanda, dovrà adattarsi. Esattamente. Allora qui non si tratta tanto, giudizio positivo collettivo sarà difficile da trovare, è difficile accontentare, mettersi d'accordo in una famiglia, figuriamoci in una squadra di calcio o tra tante squadre di calcio o quant'altro, però bisogna considerare il bene comune, che sia, diciamo, porti un male minore, il male minore per il bene comune, questo deve essere. Quindi anche, e chiudo, essere pronti a formule e a a dilatare quello che noi pensavamo potesse svolgersi in una certa maniera in altre formule. Questo penso è il mio pensiero. Noi quello che pensiamo l'abbiamo espresso in queste settimane, ovviamente il dibattito è aperto, siete tutti convocati 800 24 00 24, anche quelli che la pensano in maniera contraria. In ogni caso siamo arrivati al momento delle decisioni, della chiarezza, il tempo comincia anche a stringere, perché per essere pronti il 18 bisogna immaginare di cominciare adesso a sciogliere tutti i nodi. Saluto Pierluigi Pardo, ciao Pier. Ciao. C'è un altro filo che unisce, anche se in questo caso in maniera asimmetrica, Milano e Roma, e che mi ha molto colpito oggi leggendo i giornali, e cioè da una parte Milano che tira dritta sulla questione stadio, con Milan Inter che ieri hanno presentato un nuovo progetto, quello senza abbattere completamente San Siro, mentre a Roma si ferma tutto, Massimo. Beh sì, anche perché in questo caso le situazioni sono completamente diverse. Diciamo che a Roma c'è quella dello stadio, è una telenovela, e non è che è l'ennesimo capitolo di un viaggio, di un percorso, di un racconto molto tormentato e difficile. E dall'altra si è unita e si unisce inevitabilmente anche quella che è l'eventuale cessione della stessa Roma, e quindi io credo che in un momento come questo non è che io mi meraviglio se da una parte l'operazione vendita si sia bloccata e se al contempo si blocca anche quella relativa allo stadio, perché credo che in questo momento sia difficile sia per chi vende e sia per chi compra in entrambi i lati. Quindi ovvio bisognerà aspettare. Quella dello stadio è, ripeto, una telenovela lunghissima che non so come andrà a finire. Io personalmente credo in generale che uno dei tanti nodi della ripartenza del calcio italiano in questo momento, in questo caso specifico, è anche per ridare ossigeno, economia, per dare comunque un impulso, quello degli stadi sia un tema serio su cui bisognerà lavorare e affrontarlo seriamente, non tanto a Roma ma ovunque, perché è evidente che da questo punto di vista siamo molto indietro, sia perché è difficilissimo realizzare un impianto e quindi ci servono inevitabilmente regole e leggi diverse, però credo che non si possa passare da una ripresa senza dare alle nostre società la possibilità di avere gli impianti privati. Sì, di fare qualcosa, anche perché la riflessione, Pier, e ti coinvolgo, è che in realtà sia un altro segnale anche concreto della forza che ha lo sport in generale, il calcio in questo caso, l'impatto che ha sulla società. Cioè in un momento di profonda crisi ci sono due aziende che immaginano di investire 1,5 miliardi di euro nei prossimi anni e non hanno fatto un passo indietro, anzi ne fanno un passo avanti. No, ma lo sport, se noi guardiamo, facciamo un paragone, poi Baritoni su questo sarà sicuramente più esperto di noi, anche in anni non particolarmente floridi per il calcio italiano e per lo sport italiano, rispetto ad altri settori dell'economia sicuramente ha tenuto molto più di altri, quindi lo sport è una forza propulsiva estremamente importante del paese. Io, tu prima parlavi del discorso della ripartenza, io credo che io e te abbiamo sensibilità un po' diverse su questo tema, siamo accomunati da un pensiero che secondo me è fondamentale, cioè il fatto che il calcio non debba essere considerato come un giochino. Non è un giochino, lo sport non è un giochino, è anche, grazie a Dio, una bellissima passione che ci fa divertire, ma sì, è un settore economico, è un circuito di milionari fondamentale viziati. Poi ecco, io credo che come è stato dipinto, esatto, questo è il punto di partenza, poi ognuno ha la sua sensibilità. Io ti ripeto, certezze ne ho pochissime sulla riapertura e credo che alla fine l'ultima parola spetterà sempre e comunque all'aspetto salute delle persone, però credo anche che se noi oggi non dessimo la possibilità ai giocatori, non avessero dato la possibilità ai giocatori di allenarsi, voleva dire arrendersi in partenza. Noi dobbiamo allenarci, far allenare i giocatori in perfetta tranquillità, in perfetta separazione, ridare tutte le regole di sanificazione dei luoghi e poi fra 2 o 3 settimane vedremo a che punto siamo e se ci saranno le condizioni per ripartire. Il modello tedesco mi impressiona, ti dico la verità, da quello che si capisce, peraltro bocciato dal comitato tecnico scientifico. Non replicabile capirlo, nel calcio italiano. Si può capire tutto, ecco, purché ci sia un'alternativa. La cosa che proprio mi dà fastidio è il discorso, insomma, un po' demagogico, in cui viene trattato il mondo del calcio e il discorso degli stadi che facevi tu è assolutamente perfetto, viene trattato il mondo del calcio come se fosse così una roba da niente. Non è una roba da niente, è un pezzetto dell'economia di questo paese, come lo è lo spettacolo, il cinema, il turismo. Non è che il problema di quest'estate non è che non facciamo il bagno a mare, che rischiamo di non fare il bagno al mare, anche bello che andiamo, no, probabilmente esiste una parte di paese che sognerebbe anche quello, sognerebbe di tenere chiuso tutto. Io sono in quella parte lì che sogna il bagno al mare, che sognerebbe di tenere chiuso tutto, anche il turismo, la cultura, gli spettacoli, i cinema, i bar, i ristoranti, le pizzerie, finché non si arriva al contagio zero. Io credo che qui valga esattamente quel discorso di sottovalutazione che delle volte si ha nei confronti delle cose belle e delle cose divertenti. Credo che ci sia un po' un pregiudizio per cui il calcio, vabbè, il calcio, lo sport è l'ultimo dei problemi, quelli tra i discorsi di fronte a tutti questi morti. Ma i morti lasciamoli perdere. Portiamo grandissimo rispetto alle famiglie, a chi ha vissuto questa situazione dove veramente non è andato tutto bene, è andato tutto malissimo, e sono numeri impressionanti. Ci sono dei reportage, penso a quelli della 7, penso a Bersaglio Mobile, penso a quelli di Formigli, che sono impressionanti. Ecco, allora, e magari indaghiamo anche sulle responsabilità, se ci sono state, di gente che non ha potuto fare il tampone, di gente che non ha avuto il trattamento giusto. Questo è il punto di partenza. Poi sul resto, sulla ripartenza, il calcio è come la siderurgia, è come i tubi, è come l'agricoltura, è come la piantagione di pomodori, è come i cinema, quindi, è come i musei. Provo a tradurla e poi chiedo anche a Massimo Caputi che cosa ne pensa. Si può anche chiudere, ma il giorno in cui la politica sceglierà anche legittimamente di chiuderlo, dovrà metterla in condizione di sopravvivere, e sono centinaia di milioni di euro senza che nessuno fiati, poi, perché vanno al calcio, allo sport, alla danza, alle palestre, alla ginnastica ritmica. Oggi parleremo anche di pallacanestro e di sport del ghiaccio, ad esempio, proprio perché non siamo fissati solo sul calcio. Massimo? No, io sono pienamente d'accordo e credo che come in questo periodo si è parlato molto, come avete detto giustamente voi, di un calcio come chissà che cosa fosse. Il calcio non è certo solo né Cristiano Ronaldo né solamente l'atteggiamento di un presidente piuttosto di un altro. Il calcio è qualcosa di molto importante e quindi va trattato alla giusta maniera. E quindi se si penserà, si riterrà che il calcio non può ripartire, innanzitutto, a mio avviso, sarebbe comunque una sconfitta del nostro paese, perché significa che non saremmo in grado di poter far ripartire una delle tante industrie che caratterizzano il nostro paese. Ma detto questo, poi bisogna pensare come aiutarlo, e credo che in questo periodo, come spesso accade in Italia, parole tante, fatti pochi. Io mi auguro che questa ennesima situazione, ma soprattutto adesso che siamo proprio per ripartire, insomma, ci sia la voglia di fare sistema, di fare squadra e di arrivare veramente a delle decisioni condivise per il bene di tutti e non per antipatie e simpatie. Ultimo tema, le positività, che sono diventato l'altra faccia del bollettino quotidiano. Scrivete in tanti, 349-238-6666, andate avanti a parlare di ripresa del campionato. Ieri ci sono state 6 positività, no, 10, non 6, 10. Quindi state sereni, 4 alla Sampdoria e 6 alla Fiorentina. Poi ci sono circolate voci sul Milan, il club ha smentito, quindi noi prendiamo per buona la smentita. Però ad esempio, non so cosa pensate voi, io trovo che invece in questa fase quelle positività sono un punto di forza, cioè sono la conferma che il sistema così come è stato pensato funziona, e cioè isola prima di ricominciare l'attività lavorativa, in questo caso del calcio, chi a casa sua negli ultimi 2 mesi ha avuto e ha preso il Covid. Ma vedo che in una fase in cui si vive molto anche sull'onda delle emotività, questo invece viene cavalcato come tema contro. No, io sono assolutamente convinto che sia un punto di forza, non sia un punto di debolezza. E significa che appunto questi controlli hanno un senso e che permettono. Pensate se invece di trovare questi casi si fosse iniziato così e poi sarebbe stato addirittura peggio. Invece significa che i controlli funzionano. Tra parentesi, se non vado errato, correggetemi se sbaglio, mi sembra che tutti questi casi siano asintomatici. Sì. Quindi credo gente che fino a settimana scorsa è andata al supermercato o ha fatto la passeggiata. Ma secondo voi quanti in Italia sono in queste condizioni? Per me scusate, secondo me questo è il vero tema. Questa è una conferma empirica, Massimo, di quello che i virologi in qualche modo già ipotizzano da tempo. E cioè che probabilmente ci sono milioni di italiani che sono, che sono positivi. E questo da un lato è una brutta notizia, dall'altro è una buona notizia, perché vuol dire che ci si avvicina, l'immunità di gregge è una bestemmia, l'ha usata Boris Johnson ed era una cazzata immane, e lo sappiamo perché deve arrivare al 60% del paese, però questo vuol dire che evidentemente la quantità di persone che sono asintomatiche, che nei confronti di questo virus non sviluppano nessun sintomo, comunque dei sintomi lievissimi, è veramente alta. È una conferma empirica, ovviamente, non è statisticamente rilevante, però è un ulteriore indizio. Detto questo, il tema è quello, per me il tema centrale è quello, il protocollo. Ripeto, per me il protocollo tedesco è molto ardito, sinceramente, cioè l'idea che tu possa mettere in quarantena soltanto il giocatore, trattarlo praticamente come un infortunato normale, no? Di una squadra di calcio, insomma, mi sembra che presti il fianco a tutta una serie di, a quantomeno se ne possa discutere, ecco. Non mi convince. Però io sono d'accordo che forse è un po' ardito, però probabilmente la Germania è conscia di avere delle potenzialità, io penso, di gestire determinate situazioni meglio di altri paesi. Ma detto questo, vorrei sapere, perché il calcio, torniamo sempre a bomba, è quello che rappresenta, se ne parla ovunque e dovunque, ma in un'azienda qualsiasi, se ci fosse un caso di positività o comunque di qualcuno asintomatico, che fanno? No, ma è già successo, adesso non è che stiamo raccontando fantascienza, è 2 mesi che conviviamo, no, gioco forza, con il coronavirus, ci sono uffici e aziende in cui ci sono state positività, hanno fatto la sanificazione e poi gli altri sono tornati a lavorare. Bravo, quindi, esattamente. Tu, anche nel nostro campo, anche telegiornali importanti, l'elemento tempo in questa drammatica vicenda ha un ruolo fondamentale. Io ho visto ieri sera Clementi, un virologo che lavora al San Raffaele, improvvisamente ottimista, forse anche troppo ottimista. Da un lato mi ha fatto gioire, dall'altro mi ha spaventato, perché non voglio prendere troppi entusiasmi. Diffido dagli ottimisti. Altri sono molto più prudenti. Bisogna stare sul pezzo. Però la verità è che questo virus lo stiamo scoprendo adesso, quindi la situazione di oggi è molto diversa rispetto a quella di un mese fa, e non sappiamo come sarà la situazione fra un mese, e non sappiamo come sarà la situazione in autunno, perché secondo me il vero punto debole di chi dice che bisogna fermarsi, che ripeto, io considero un'ipotesi, chiedergli come si riparte a ottobre, è che poi a luglio se tu finisci questa stagione, congeli il risultato sportivo come ti pare e dici che ricominci, tu a luglio comunque hai gli allenamenti e quindi stai spostando il problema di un mese? Sì. Ma infatti, decidiamo, avendo certificato che non c'è soluzione. Mi permetto di dire che c'è una parola, un verbo che convivere, cioè la verità è che noi dobbiamo imparare a convivere e a combattere questo virus, e non possiamo pensare di dare scadenze, non perché nessuno ce le può dare, come giustamente stavi dicendo, non è che a luglio, agosto, settembre noi abbiamo alcuna certezza che abbiamo risolto tutto. Quindi dobbiamo per forza di cose trovare delle soluzioni che ci permettano di proseguire. Poi è ovvio, io l'ho detto all'inizio, non è che noi possiamo pensare di ripartire e di fare tutto così come nulla prima, fosse accaduto. Quindi qui vorrei anche dire che per una volta forse, o per una delle tante volte, anche l'Europa deve essere Europa anche in questo, perché io trovo che sia abbastanza difficile coordinare un movimento straordinario e importante come quello del calcio a livello mondiale, pensando che ogni paese va per conto suo, che la UEFA dice una cosa e la FIFA ne dice un'altra. Quindi anche in questo dobbiamo, perché noi accusiamo spesso il nostro calcio, ma guardate che voi siete attenti osservatori, che già tra la FIFA e la UEFA dicono due sì, cose diverse. Anche se in questo caso sono sbagliate sia le fughe in avanti che quelle, indietro, certo. E qualche esempio c'è stato. Grazie Massimo. Grazie a voi. Grazie a Massimo Caputi e andiamo in C. Congelamento cosa vuol dire? Rigiocare in Serie C l'anno 21? No, certamente no. In questo caso ricorremo ovunque. Ma non è che si può pensare che il Monza, dopo gli investimenti fatti, dopo tutti gli sforzi fatti, dopo i 16 punti conquistati, si ferma al campionato e ti dicono allora l'ultimo della Serie B sta in B e il Monza invece sta ancora in Serie C. Allora, questo Gagliani da noi un mesetto fa, ricordi Pier? Sì. Saluto Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro. Presidente, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Buongiorno. Ieri la Lega Pro ha scelto di proporre di tagliare il nodo, fermare la stagione, mandare in Serie B Monza, Vicenza e Regina, le prime dei rispettivi gironi. Poi c'è il quarto nome, prevarrebbe il merito sportivo di questa stagione e quindi dovrebbe salire il Carpi, ma c'è anche l'ipotesi dei play-off. E c'è la certezza, presidente, che si creerà un certo numero di scontenti. Oggi i giocatori del Bari hanno chiesto rispetto, i play-off, insomma, si annuncia un'estate caldina. Ma guardi, intanto partiamo dall'assemblea. È stata un'assemblea la più bella che ho svolto nel corso di questo mandato, e non era facile che potesse essere così, perché è evidente che c'è una situazione pesante, quindi l'hanno affrontata con molta dignità, perché dal 21 di febbraio le mie squadre sono ferme del girone A e del girone B, e dalla fine di febbraio quelle del girone C, e le nostre risorse sono botteghini e sponsor, quindi non c'era modo di andare avanti. No, dico, quindi allora decidemmo di chiudere perché mettemmo la salute al primo posto. Quindi l'assemblea di ieri è stata svolta con un enorme senso di responsabilità, con grande rispetto alle ragioni di ognuno, si sono ascoltati, hanno riflettuto insieme e poi sono andati a una votazione democratica per appello nominale sulla base di, quindi ognuno sapeva come l'altro stava votando. È chiaro che se ci fosse stato si potesse chiudere il campionato non ci sarebbero problemi. Nel momento in cui non si chiude il campionato bisogna scegliere due strade che sono le meno impervie. La prima, l'ancoraggio alle norme federali. E il secondo, quella soluzione che crea meno problemi possibili, meno contenziosi. Pensare che si possa trovare in una situazione di questo genere l'unanimità mi sembra... Quindi provo a tradurre, lei non ha paura di eventuali ricorsi e l'ipotesi che il quarto nome possa uscire dai play-off la ritiene praticamente impraticabile, insomma. No, io... Allora, io auspico, come ho detto ieri, che non ci siano ricorsi, per un motivo semplicissimo, perché mentre il paese soffre, anche se ci possono essere delle valutazioni di un diritto che uno ritenga non rispettato dal punto di vista di quanto pensa, però ci dovesse essere una cosa di questo genere, la gente non ci capirebbe, ci sarebbe veramente un calcio nel sedere, ha proprio ragione, quindi bisognerebbe evitarlo. Bisognerebbe evitarlo. Dal punto di vista, c'è stata una votazione, la maggioranza si è espressa per quanto riguarda il merito sportivo, come normalmente è stato fatto, è stato il meccanismo più utilizzato nei momenti di difficoltà. Una parte ha votato per quanto riguarda la questione dei play, e però lì, con questa soluzione andremo al Consiglio federale e poi il Consiglio federale deciderà. Che dovrebbe essere settimana prossima. Ultima domanda, non c'era margine per fare altro e lei ritiene comunque corretta la guerra che sta, la battaglia che sta conducendo la Serie A invece per provare a restare aperta? Credo anche nell'interesse di chi sta sotto, eh. Noi l'abbiamo espresso ieri, la solidarietà alla Serie A e il pieno appoggio alla Serie A, nel senso che, per fare un esempio, loro pagano pegno anche per noi da questo punto di vista, perché il contratto, per esempio, dei diritti televisivi è blindato, però è chiaro che se si apre un contenzioso, dicono dalle mie parti, quei 5 milioni che noi dovremmo prendere dalla Melandi li prenderemmo a babbo morto, quindi avremmo, ecco, un colpo anche noi. Quindi traduco, non c'è un presidente di federazione o di lega sotto la Serie A che si auguri il lockdown e la chiusura della Serie A, se deve guardare i propri interessi. Ma certo. Sì. Ma il calcio, la Serie A e il calcio, Ghirelli l'ha detto con grande correttezza, col meccanismo della mutualità concorrono al bilancio dello sport italiano e quindi dello Stato italiano. Perché molti hanno costruito questo dualismo, questo dualismo. Se viene tagliato lo stipendio, certo, di Cristiano Ronaldo, il 50% di tasse di quello stipendio così ricco, lo Stato non lo vede più, la parte lorda, no? La parte di tassazione. Quindi siamo tutti sulla stessa barca, amici, siamo tutti sulla stessa barca e siamo di fronte a una decisione complicatissima, perché da un lato c'è ovviamente la salute delle persone e la possibilità che questo rischio zero ci possa essere forse fra 2 anni, perché finché non ci sarà stato l'ultimo contagio nel mondo che diventa negativo, il rischio zero non ci sarà. E dall'altra però un mondo, non soltanto dello sport, ma dell'economia di questo paese, che non si deve fermare. Quindi è un casino decidere, non è facile. No, è difficile, però mi fa piacere che il Presidente Ghirelli l'abbia espresso in maniera molto comprensibile. Ma non c'è alcun dubbio in questa direzione per quanto riguarda questo aspetto. Certamente ci sono alcuni dati, come si vede, di questo maledetto virus che ci sfuggono, quindi ce lo devono dire prima di tutto le autorità sanitarie, quando e come si possa riprendere, sulla base di quello valutare noi come si possa in questa direzione. Certamente c'è un progresso continuo dal punto di vista della scienza, dei farmaci, delle analisi che dobbiamo incrociare e poi ci sarà il vaccino che deciderà appunto, e ci auguriamo che il vaccino sia la soluzione, però per il vaccino c'è ancora molto tempo. Grazie Presidente. Grazie a voi. Grazie Francesco Ghirelli, Presidente della Lega Pro. C'è la borsa, ci fermiamo, poi ci buttiamo nel campo della pallacanestro con il Presidente della FIP Petrucci. Convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. Se uno viene trovato positivo si ferma lui e basta, cioè è buona, chiudono tutta la ditta, o in un supermercato una cassiera è positiva, chiude il supermercato, viene messo fuori rosa quello, va a casa in malattia, fa quello che deve fare, si fanno i controlli agli altri, se ce n'è qualcun altro positivo idem, è buona. Non penso che su 25, anche alla Juve, che si sono ammalati in 3, non è che sono ammalati in 25. Sento dire ripartiamo con il calcio perché economicamente, ed è vero, io capisco questa cosa, prenderemo le disposizioni giuste, gli spogliatoi, i giocatori staranno a distanza, ci saranno le protezioni e così via dicendo. Ma poi, scusate, ma quando poi vanno in campo a giocare, cosa fanno? Stanno a distanza? C'è anche chi ha scelto, non solo la Serie C, di chiuderla in anticipo la stagione. Allora, saluto Gianni Petrucci, presidente della Federpallacanestro, già numero 1 del CONI. Petrucci, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Allora, ieri la pallacanestro ha dato l'ultima conferma, si sapeva, insomma, di uno stop della stagione senza scudetto, senza retrocessioni e poi lasciando spazio alle società in queste settimane di valutare dove posizionarsi, perché chiaramente ci sarà una crisi economica che per qualcuno diventerà ostacolo anche all'iscrizione nella prossima stagione, magari in Serie A, e quindi l'idea è che alcune cose si sistemeranno, credo, Presidente, in maniera abbastanza fisiologica e naturale. Ma è logico questo, quindi adesso aspettiamo alcuni giorni per vedere attraverso le leghe di A1 e di A2 quello che decideranno, poi sarà la federazione a mettere l'ultima parola. Certo, il momento è difficile, nessuno lo nega, ho sentito anche i servizi che sono andati prima, noi abbiamo una situazione diversa da quella del calcio, io rispetto il calcio, vengo anche dal calcio, sono tifoso di calcio, per cui se il calcio riparte sarò lì davanti alla televisione a guardarlo. Però la situazione è completamente diversa. Noi abbiamo fatto questa scelta di chiudere, abbiamo avuto ragione perché poi nessuno ci ha dato torto. Adesso sono curioso di sapere quello che farà il calcio e quello che deciderà in completa autonomia. Ma lei la ritiene corretta questa battaglia per riuscire a riaprire? Ma certo che sì, perché hanno voglia, hanno voglia. Io non è che condivido il fatto che si dia che il calcio finanzia tutto lo sforzo, e questo non è vero, poi chi lo dice lo dovrebbe dimostrare, perché il calcio certamente è lo sport più popolare, è lo sport che fa vendere tutti i giornali, c'è cioè audience televisivo, radio televisivo, sulla stampa, tutto quanto. Beh, mi si dovrebbe dimostrare perché finanzia lo sport, in base a che c'è un concorso scommesse sportive che tutto insieme il comparto, che in autonomia peraltro il governo decide poi che attraverso quel monte con scommesse sportive, Enalotto, Super Enalotto e altre scommesse finanzi tutto lo sport, ma non per scelta del calcio o del basket, perché pure il basket ha scommesse sportive, ovviamente non in proporzione come il calcio. Sì, è innegabile che le fette siano differenti, la fetta del calcio in fase di contribuzione è certamente molto ampia. Pierluigi Pardo, domande per Petrucci. No, ma appunto io volevo capire, volevo tornare un attimo sulle decisioni che hanno portato a questa vostra scelta. Credo che Petrucci sia d'accordo con me, non credo che proprio sia il caso di fare distinzioni fra il calcio e gli altri sport, cioè questo è un tema proprio manicheo che credo gli uomini di sport, Petrucci lo è più di tutti noi, sicuramente non vivono, è tutto un sistema, è tutta una famiglia dello sport italiano che vive di diverse discipline, di diverse ma spero con la stessa sensibilità. Ma è scontato quello che dice Pardo, sono d'accordo con lui, cioè che il calcio poi ha fatto questa scelta, perché io conosco e comprendo perfettamente che quello che perderebbe il calcio è superiore a quello che perdono le federazioni. Pure noi siamo uno sport professionistico, insieme al calcio gli unici sport di squadra professionistici il calcio e il basket, per cui certamente è chiaro che si deve aiutare il calcio come si deve aiutare il basket, perché uno sport professionistico paga più tassazione, ha certamente più adempimenti, e è chiaro che quando si fa una scelta di professionismo è perché si vuole ancora più una garanzia sui controlli dei bilanci delle società. Quindi questo è tutto vero e tutto giusto. Noi abbiamo fatto la scelta di chiudere perché non si va contro natura, il calcio ritiene, peraltro il calcio gioca all'aperto e noi al chiuso, quindi ha una valutazione diversa dalla nostra. Però lo rispetto il calcio, rispetto Gravina per quello che sta facendo. Non voglio entrare nel merito del governo, per cui è un problema oggi che non mi tocca. Laddove ero al calcio probabilmente avrei fatto probabilmente anche la stessa scelta, però non lo posso dire oggi. Certo. Presidente, ma lei come si immagina che a ottobre possa ripartire la pallacanestro? Nel senso che le condizioni, abbiamo un po' imparato in queste settimane, le condizioni che ci sono oggi ci saranno magari simili anche in autunno, e per gli sport di contatto al chiuso, ad esempio per la pallacanestro, sarà comunque difficile immaginarsi un modo per ripartire. Lei come se lo immagina? Ma questo non lo sappiamo oggi, perché vedete, noi ascoltiamo sempre i messaggi, le raccomandazioni che ci danno, gli italiani sono bravi, e io dico vabbè, bravi, non so che abbiamo fatto atti eroici, siamo rimasti a casa, nel senso che noi potevamo uscire, non è che abbiamo, diciamo, gli italiani sono stati, dopo come saranno più bravi, ma io non lo escludo che potremmo essere più bravi, ma potremmo essere peggiori, quindi queste frasi apodittiche non sono mai amate, ma io mi auguro che si possa giocare tranquillamente, tutti dicono a porte chiuse, e io però voglio giocare da subito, per cui noi abbiamo dato ieri incarico al Politecnico di Torino, che è la grande università italiana, proprio per studiare una mascherina per far giocare i ragazzi, i giovani adesso all'aperto. Noi siamo lo sport che nasce dove nascono i playground, negli Stati Uniti d'America, pure in Italia, adesso c'è il 3 contro 3 con la disciplina olimpica, che in un anno ci ha affrontato. Una mascherina che aiuti già da adesso, insomma, a poter tirare due palloni nel cesto. Tra l'altro, ieri ho fatto un giro in un parco di Milano. Ragazzi, non si può, c'erano i playground pieni, non si può, quella roba lì non si può in questo momento. Mi perdoni il presidente, lo diciamo, no, perché va ripetuto. Siamo d'accordo, adesso è vietato. Ecco. Ovviamente quando sarà permesso. Mi raccomando. Noi questa mascherina, adesso che ci sta preparando il Politecnico di Torino per giocare all'aperto, laddove fosse permesso giocare all'aperto, sentendo quello che dirà poi il governo, i ministeri, i deputati. Però ecco, voglio chiarire subito che questa mascherina non è che poi riguarderà anche quando si dovrà giocare il campionato di Serie A. Noi speriamo di ripartire senza mascherina nel campionato, ma oggi, siccome lo sport non può stare troppo mesi fermi, se voi pensate che noi siamo stati i primi a fermarlo e poi non sappiamo quando potrà riprendere, io mi auguro che si possa riprendere ad ottobre o con una Coppa Italia, Supercoppa Italia, campionato. Questo saranno fatte delle proposte da parte delle leghe, e per cui la mascherina adesso per dare certezza alle famiglie di mandare i ragazzi, quando sarà permesso, a giocare un 3 contro 3 all'aperto, a fare dei centri estivi, un 3 contro 3 centri federali. Noi abbiamo già con un'organizzazione con Master Group, che è quella peraltro del che gestisce il Sassuolo Calcio, Giovanni Carnevali, e quindi questo, la finalità di questa mascherina è perché noi vorremmo partire. Quando si potrà partire, quindi abbiamo il diritto, noi come hanno il diritto tutti i commercianti e i balneari di poter ricominciare a praticare, che in un certo senso è ribaltare la piramide, e cioè ricominciare dalla base prima di arrivare al vertice, aspettando che maturino le condizioni. C'è una notizia che arriva dall'IFAB, ve la do così perché è appena stata battuta dalle agenzie. L'IFAB, che se vi ricordate è il board che stabilisce le regole del calcio, ha dato l'ok al cambiamento temporaneo della regola sulle sostituzioni, che diventano 5. Dunque, dove si ricomincerà a giocare le sostituzioni saranno 5. Per evitare troppe interruzioni del gioco, ogni squadra avrà solo 3 opportunità per effettuare i cambi. Quindi se vorrà fare 5 cambi in alcune di questi slot dovrà farne più di uno. La modifica, dice l'agenzia, entra in vigore con effetto immediato, e quindi questa ve la raccontiamo così come è appena arrivata. Qualora si riuscisse a giocare, ci fossero le condizioni mediche per poter giocare, mi sembra che, visto che a quel punto si dovrebbero giocare tante partite, è un periodo oltretutto caldo, aumentare le sostituzioni è di assoluto buon senso. Mi viene un'ultima domanda per Gianni Petrucci, grande uomo di sport. Riesce a pensare alle Olimpiadi della prossima estate o in questo momento è quasi un atto di fede? No, io ci voglio pensare, però non mi piacciono quelle risposte che mi furono date quando io dissi per primo, non so se in Italia, in Europa o nel mondo, che difficilmente si potevano fare le Olimpiadi, perché le Olimpiadi non parte dal momento di inaugurazione, ma diversi mesi prima. La risposta era: non è in agenda, poi avete visto che l'agenda è stata cambiata. No, io penso che si farà le Olimpiadi, perché oggi però la certezza non ce l'ha nessuno. Io non posso dire nemmeno che è sicuro, come non posso dire che è sicuro che non si faccia, poiché non sappiamo nulla, se non che il vaccino non c'è e che ci sono qualche cura per cercare di affrontare questo coronavirus. Io voglio essere realista, ripeto, oggi non si sa nulla, dobbiamo rispettare quello che ci dice lo Stato, che ci dice il governo, dobbiamo rimanere a casa, certamente dobbiamo fare una programmazione per riaprire tutti quanti, perché è ovvio e logico, perché poi vediamo che in tante nazioni questa programmazione si è potuto fare, ci auguriamo di farlo pure noi, specialmente nello sport, specialmente nel basket. Perciò abbiamo chiesto questa mascherina adesso per cercare di ritornare a vivere, ma ripeto, solo adesso per la stagione estiva, laddove fosse possibile con i ragazzi. Perché poi a ottobre ci si augura che si possa stare senza mascherina dentro un palazzo dello sport a ricominciare a vedere almeno il campionato. Grazie Presidente. Grazie a voi, buonasera. Grazie a Gianni Petrucci. Pier, ti saluto, ti do appuntamento lunedì. Ciao. Tra l'altro lunedì, ciao, lo dico ad Antonio Dannoviglio, che scrive messaggi preoccupati, torna Carlo Gente, è stato semplicemente una settimana in vacanze, quindi non c'è nessun retroscena. Fabio da Cesena, Andrea da Piacenza, Paolo da Perugia, dopo il traffico ricominciamo da voi. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Fabio da Forlì Cesena, 800 24 00 24, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, salve, io ho chiamato per dare un mio parere. Sono presidente di una società completamente sportiva, completamente lontana dal calcio, che è il football americano, e ho un'idea ormai da più di un mese di questa diatriba enorme su riprendere il calcio, con capendo benissimo la sofferenza, il rispetto verso chi non c'è più, eccetera eccetera, ma io penso che sia basilare che il calcio riprenda a prescindere dagli interessi economici, ma la Serie A deve riprendere perché sarà da volano e da speranza per tutto lo sport italiano, perché se non riparte il calcio, secondo me, non so come faranno anche sport come me minori a ripartire. E quindi anche se spesso poi questa definizione di sport minori, che il calcio possa giocare, giustamente viene rifiutata. Sarà veramente da volano e darà una sorta di normalità e anche una speranza a tutti gli altri sport. L'abbiamo visto, il basket ha smesso subito il campionato e io trovo correttissimo, per certi aspetti non tocco l'ambito economico, che il calcio, soprattutto quello di Serie A, voglia ripartire, perché può essere sia di stimolo come esempio e fare volano per gli altri. Io le dico, per il mio sport non giochiamo neanche a settembre, ma neanche nel 2021. No, chiaro. Mi perdoni, in realtà c'è l'alternativa, cioè, se il calcio non dovesse ripartire perché non ci sono le condizioni o perché viene deciso, come è stato ventilato per qualche settimana, che non dovesse ripartire e basta, evidentemente ci sarà una crisi un po' più profonda di tutta la filiera dello sport e quindi dovrà esserci un governo che trova le risorse per aiutare questa filiera, esattamente come deve trovare le risorse per aiutare tutti gli altri settori industriali che stanno soffrendo con tutto il loro indotto. E quindi non stiamo parlando dello stipendio milionario di diversi calciatori di Serie A. Paolo Perugia, Paolo? Allora, proviamo Andrea da Piacenza, vediamo se recuperiamo Paolo da Perugia. Andrea? Pronto, buongiorno. Eccoci. Sono Andrea da Piacenza. Saluti a tutti. Ma io, premesso che odio il calcio, quindi non so assolutamente niente di calcio. Però penso che il calcio, come tutte le attività, debba ripartire. Il calcio ha una funzione, oltre che finanziaria, dare uno stipendio a migliaia di persone, ha una funzione assolutamente sociale, tiene insieme, unisce, fa stare allegri milioni di persone. Quindi secondo me il calcio assolutamente, Serie A, Serie B, Serie C è uguale. La Serie C lo abbiamo detto prima, non ripartirà, la Serie B non lo so, la Serie A è un mondo a parte. Io non enfatizzerei nemmeno questo significato sociale, perché ci sono problemi che non saranno superati guardando una partita in televisione. Resta invece in piedi, secondo me, tutto il resto del ragionamento. Proviamo a recuperare Paolo da Perugia, che c'è, sì, Paolo. Paolo? No, niente, non ci riusciamo. Allora, vi ho promesso che parlavamo di sport sul ghiaccio. Saluto Andrea Gios, che è presidente della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio. Presidente, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Che abbiamo convocato per darci un altro spaccato di come lo sport italiano sta provando a ricercare la normalità. Intanto cominciamo da quanto state soffrendo in questa situazione. È una situazione difficilissima, soprattutto per noi che dobbiamo praticare i nostri sport su una superficie ghiacciata che costa per costruirla e per mantenerla. Quindi alle difficoltà delle società di base, che ovviamente stanno affrontando una crisi incredibile, le famiglie che non riescono molto probabilmente a sostenere degli sforzi economici importanti, abbiamo il problema dei gestori che si trovano di fronte all'incognita se aprire gli impianti, se poter dare forza alle loro società, perché evidentemente sono impianti costosi e fare il ghiaccio è un costo veramente importante, per cui siamo davanti a una situazione abbastanza difficile. Fino ad oggi che tipo di sostegno e aiuto avete avuto? Noi il sostegno diretto non abbiamo avuto nessun aiuto da parte di Sport e Salute, c'è stata soltanto un'anticipazione sui fondi che ci erano stati assegnati, però noi da parte nostra abbiamo dato un buon sostegno alle nostre società, mettendo a disposizione tutti gli strumenti che avevamo, abbiamo impegnato più del 50% del nostro patrimonio che abbiamo accumulato negli anni realizzando manifestazioni internazionali come i mondiali di pattinaggio artistico o la finale Gran Prix l'anno scorso, per consentire alle nostre società di poter affrontare questo inizio di stagione, perché sarà difficilissimo, con incentivi, con sostenimento di spese, con incentivi affinché facciano far sport ai loro ragazzi. Quindi diciamo che si sono aperti i risparmi del passato per provare a superare questa prima fase. Poi leggo che avete invece anche portato al ministro Spadafora una proposta su una lotteria. Ah sì, noi ancora il 6 aprile abbiamo mandato una lettera al ministro Spadafora, e per conoscenza ovviamente al CONI, a Giovanni Mago, in cui proponevamo, proprio in considerazione di questa crisi che affronteranno le società, qualche strumento per poterle aiutare a ripartire. E abbiamo fatto tre proposte sostanzialmente. Due proposte abbastanza facili e note: una di dare un credito d'imposta, come viene dato, del 30% a chi sostiene l'editoria o chi sostiene il cinema, quindi determinate funzioni sociali, dare un credito d'imposta del 30% alle società che sponsorizzano società sportive, oppure di fare una normativa come Industria 4.0 in cui i costi per sponsorizzazione della società sportive possono essere detratti in maggiore o superiore, in meno superiore circa il 140%. Sì, insomma, delle facilitazioni fiscali. Delle facilitazioni fiscali, perché ce n'è bisogno. E poi invece abbiamo proposto un'operazione che viene fatta in Nord America da circa 20 anni e che si chiama lotteria 50-50, 50-50. Sostanzialmente cosa succede? Durante gli incontri delle partite di hockey dell'NHL, l'NHL è il massimo campionato di hockey su ghiaccio, paragonabile ai campionati professionistici di calcio, di basket, di baseball, durante gli incontri il pubblico può acquistare biglietti di una lotteria. Acquistando questi biglietti va ad alimentare un montepremi, e questo montepremi viene poi alla fine destinato il 50% al vincitore, e il 50% viene dato a scopo benefico di sostegno dell'attività giovanile attraverso delle fondazioni che hanno queste società di NHL. Quindi sarebbe sostanzialmente il modo, coinvolgendo, immagino, insomma, non soltanto l'hockey su ghiaccio in questo caso, ma anche sport di più ampia diffusione, sarebbe il modo di riuscire a mettere insieme quel fondo per cercare di aiutare lo sport in generale a ripartire, anche con lo sport di base. No, secondo noi è un criterio molto interessante per finanziare lo sport giovanile senza andare a toccare risorse pubbliche. Nel senso che poi sta alla capacità delle singole società in tutti gli sport, perché questo vale per l'hockey su ghiaccio in Italia, vale per il basket, vale per la Serie A. Abbiamo portato degli esempi: una squadra di NHL di hockey su ghiaccio che ha circa 17.000 spettatori media partita, che fa in casa 40 partite all'anno, accumula 6 milioni e mezzo di dollari durante la stagione. Quindi questi 3 milioni e mezzo che sarebbero vanno utilissimi a finanziare i giovani. Certo, e vediamo se vi arriverà una risposta. Grazie Presidente. Grazie, arrivederci. Grazie ad Andrea Gios, Presidente della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio. Allora, Alessandro Reggio Emilia, Alessandro. Salve a tutti. Io allora, visto che avrò sì e no 30 secondi per parlare, anche ho bisogno minuto, del vostro aiuto. Anche un minuto, però spreca, anche un minuto usalo speriamo bene, senza allora sprecarlo. 10 secondi me li ha sprecati lei, quindi adesso li sì, recuperiamo. Sì, però vai avanti, perché sennò passiamo ascolti, a Giovanni ascolti, Milano. Ascolti un attimo. Io volevo sapere da lei se il presidente Ghirelli della Serie C ieri è stata l'assemblea caccia e pesca invece che l'assemblea di Serie C. Perché non è possibile che abbia detto che ieri l'assemblea è finita tutta bene, tutta rose e fiori. Ieri è stato calpestato il diritto sportivo all'equità. È stato veramente calpestato, perché nel girone B, quello che ha promosso il Carpi, sono state fatte delle cose incredibili. È stata omologata la 27esima giornata, quando alcune squadre hanno giocato e altre no. E quello ha determinato il diritto sportivo andare su del Carpi piuttosto che di un'altra squadra. Che visto che telefono da Reggio Emilia, Lei già potrà capire. Sì. Io non sto, so che sono tre le squadre in corsa, una è il Bari, diciamo, di cui abbiamo parlato prima, una è il Carpi e l'altra fa riferimento al suo territorio. Alessandro, io non lo so, ci saranno i ricorsi, io sono sicuro che ci saranno i ricorsi e forse è anche giusto che sia così. Credo che sia impossibile trovare un metodo che in questo momento tenga insieme tutti. La UEFA, quando ha chiesto di mandare le classifiche per le coppe europee della prossima stagione, ha detto vigileremo che ci sia almeno una coerenza. Io non so se il sistema trovato alla Serie C sia coerente. So che non esiste un sistema perfetto in questa situazione. Giovanni, Milano. Sì, ciao, buongiorno a tutti, salve. Vai. Sono presidente di una società di softball che non è altro che il baseball femminile. Sì. Ecco qui. Si gioca come il baseball, ma si tira da sotto quando si fa il lancio. Si tira da sotto, bravissimo. La palla più grande, sì, bisogna picchiarla più lontano possibile. Insomma, ecco. Ecco, no, purtroppo è il mio grosso rammarico. Io sono anche l'uomo di calcio, ho fatto l'arbitro, quindi tante cose, direttore sportivo. Adesso ho cambiato sport. La cosa che mi rammarica è che si parla solo di esclusivamente di calcio, perché anche noi abbiamo lo stesso problema. Noi diamo, siamo stati una delle prime società, siamo qui di bollate, a dare i giocatori alla nazionale, è stata una delle prime nazionali che si è qualificata per le Olimpiadi. Diamo circa mediamente tra l'Under 12 e la Seniores, diamo 15-20 giocatori all'anno alla nazionale. Quindi siamo una società importante, lo stiamo facendo il possibile. Però purtroppo si parla solo ed esclusivamente di calcio. Ma io credo, Giovanni, che si parli di calcio per il movimento che c'è intorno, che è un movimento che tanti presidenti di federazione, abbiamo sentito anche Petrucci che è stato presidente del CONI, dice poi, senza mitizzarlo, serve anche per aiutare tutte le altre realtà e tutto lo sport di base. Io credo che per questo se ne parli ed è per questo che sia giusto, questa è la mia opinione, che il calcio vada avanti con una sua battaglia diversa da quella di tanti altri sport, poi vedremo dove porterà. Intanto noi ci fermiamo, lunedì torna Carlo Genta, io ringrazio Claudio Schiattone, Alessandro Marco Tulli, in regia Filippo Aureggi, Gianmarco Ferronato ai montaggi, l'appuntamento è lunedì dopo il GR delle 14. Venga, è stato una montana russa. Ciao, Radio 24. Saluti!